2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 e sicuramente la notizia più importante nel nostro ambito, quindi notizie di tecnologia, è l'acquisizione, o meglio l'annunciata acquisizione da parte di Salesforce.com di Slack, una nota piattaforma di messaggistica e collaborazione per i team, ma un po' di più, forse così definita così è semplicistico, potremmo definirla una piattaforma di collaborazione cross-channel, cross-canale tra dipendenti, collaboratori, partner, clienti. Fa sicuramente impressione la cifra pagata, ovvero 27,7 miliardi di dollari, anche se parte del motivo è legato alla crescita stellare delle quotazioni azionarie delle aziende high-tech americane. E infatti parte di questa acquisizione è in azioni e mai sarebbe avvenuta se non ci fossero queste quotazioni stellari di tutto il settore tecnologico americano. Salesforce acquisisce velocemente, oltre che la tecnologia, anche clienti, ma soprattutto competenze. Cosa sempre più difficile in California, perché costano molto le competenze. Non è un caso che HPE, Hewlett Packard Enterprise, ha annunciato che sposterà la propria sede dalla Silicon Valley, andrà a Houston in Texas, e uno dei motivi di questo spostamento è anche proprio dovuto alla difficoltà nel reperire competenze, professionalità, che devono essere pagate moltissimo. Questo è un trend che vediamo già da qualche anno, dalla Silicon Valley verso altre zone, ad esempio Las Vegas è un altro punto dove molte aziende tecnologiche stanno andando. Tornando a Salesforce, l'azienda americana vuole integrare, almeno queste sono le dichiarazioni, le funzionalità intuitive, innovative di comunicazione di Slack con quello che gli esperti definiscono la capacità di governo dei processi delle piattaforme di Salesforce. Ma come dice bene IDC, ho parlato con le persone di IDC in Italia, la prospettiva di una collaborazione innovativa non è soltanto una sfida tecnologica, ha a che fare sempre più e soprattutto con il modo in cui le persone, la cultura, l'organizzazione, i processi aziendali evolvono e si trasformano. È un po' come quello che definiamo forse impropriamente smart working. Non è un problema tecnologico, comunque lo è in parte, oramai potremmo dire in minima parte, è un problema di come le persone, la cultura aziendale, l'organizzazione e appunto il cambiamento dei processi aziendali si evolvono nel tempo e si trasformano. Lì sta il problema, cultura e mentalità. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Dall'8 dicembre partirà il programma di rimborso per i pagamenti digitali effettuati in Italia nei negozi fisici, quindi non l'online, il cosiddetto piano cashback. Tutte le istruzioni sono sul sito cashlessitalia.it. Grande uso dell'inglese per un paese dove non mi sembra che ci sia così tanta, insomma, così diffuso l'inglese. Potevano anche inventarsi qualcosa di diverso, comunque. Allora, per registrare i propri sistemi di pagamento, perché ovviamente per avere indietro i soldi di rimborso uno deve registrare i sistemi di pagamento di modo che tutte le volte che li utilizza vengano tracciati e venga fatta la somma di tutti i pagamenti che vengono fatti, e poi bisogna comunicare anche un sistema di pagamento sui quali questo cashback, questo rimborso viene erogato. Allora, per registrare i propri sistemi di pagamento dall'8 dicembre è possibile usare l'app Io, già usata per il bonus vacanze. In ogni caso ci sono altre modalità, o l'altra modalità forse più facile e più semplice è registrarsi attraverso le app collegate ai diversi sistemi di pagamento che uno ha già. Ad esempio, se uno ha Satispay potrà usare l'app di Satispay per iscriversi al cashback. Ovviamente si iscrive solo sul canale Satispay. Così come ad esempio Nexi ci ha scritto informandoci che le app collegate alle carte di credito di Nexi permettono di fare questa operazione. E in questi casi non è necessario, così come lo è invece per l'app Io, avere o la carta d'identità digitale o lo SPID, cosa che comunque se avete non guasta perché vi serve per altri servizi. Parliamo della Campari, che ha confermato di essere stata vittima di un attacco ransomware a seguito di un accesso non autorizzato alla propria rete. Campari ha confermato anche che sono stati compromessi alcuni dati personali di dipendenti o collaboratori e anche dati aziendali riservati molto importanti come contratti o informazioni sui clienti. È ancora in corso un'indagine e altre informazioni potrebbero emergere visto che sono stati esfiltrati circa 2 tera di dati. Però confermo che la Campari è un'azienda estremamente seria, molto trasparente, perché ha sempre informato e ci ha sempre informato di questo episodio, mentre altre aziende di cui abbiamo notizia, e poi prima o poi lo diciamo, fanno un po' gli ignorri, cioè dicono ma sì, forse no, vediamo, adesso ci sono ancora delle indagini in corso. Secondo me invece, visto che praticamente tutti vengono attaccati e ogni tanto può succedere che vengano rubati dati, succede nelle migliori famiglie, l'atteggiamento migliore è quello di essere trasparenti e comunicare con il mercato, oltre al fatto che Campari è un'azienda quotata. Però direi che questo atteggiamento conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la serietà dell'azienda. Parliamo di una catena di cinema che esiste in tutto il mondo, però diciamo che c'è un po' una polemica che è legata agli Stati Uniti, però se succede lì potrebbe poi accadere anche qui. Allora, AMC, che è la proprietaria della catena di cinema Odeon e anche degli UC Cinema, che esistono anche in Italia, pensate che questa catena ha 1000 cinema e quasi 11.000 sale, sta dialogando con la Warner Bros., che ha annunciato l'intenzione di rendere disponibili tutte le nuove uscite di film in streaming, almeno negli Stati Uniti, sulla piattaforma HBO Max, annunciata il 27 maggio scorso e che dovrebbe arrivare anche in Europa il prossimo anno. E vedremo come va a finire questo dialogo. Non so se definirlo solo dialogo o stanno proprio litigando. Allora, a proposito di nuove piattaforme di streaming, da segnalare che Dplay dal prossimo 4 gennaio verrà sostituita da Discovery Plus. In questo caso mi sembra che manchi molta fantasia e tutte le piattaforme di streaming si chiamano, tutte no, però molte nuove si chiamano qualcosa Plus. E questa era l'ultima notizia. Nelle ultime 2 settimane abbiamo parlato in un paio di occasioni del tutto esaurito delle nuove console da videogame, PlayStation nuova, Xbox nuova, Microsoft e Sony che si fanno grande concorrenza, c'era molta attesa e uno dei motivi per cui queste console sono andate esaurite a pochi giorni dall'uscita è che appunto c'era tantissima attesa. Ma c'è un fenomeno abbastanza particolare, originale e tecnologicamente stuzzicante, per questo che adesso ne parliamo, che contribuisce a tutto ciò. Ne ha parlato, ha approfondito e quindi ce lo facciamo raccontare da Roberto Pezzali, giornalista esperto di tecnologia della redazione di dday.it. Roberto, bentornato a 2024, ciao. Ciao Enrico. Sì, il fenomeno è un po' abusato negli ultimi tempi, non le comprano gli umani, le comprano i computer. Ci sono un sacco di persone che stanno utilizzando questi bot, questi script che automaticamente scansionano i siti, trovano prodotti disponibili, li mettono nel carrello, avvisano con un messaggio, una notifica su Telegram la persona che prende, finalizza l'acquisto e quindi compra, ma non per sé, tante volte per rivenderlo magari come bagarino su siti a un prezzo doppio o triplo rispetto a quello ufficiale di vendita. Oggi se guardiamo sui siti, sui siti di aste, su molti marketplace, ci sono PlayStation vendute a 900, 1000 euro, anche di più, che è il doppio del prezzo di vendita. Pazzesco, quindi mi stai dicendo che ci sono persone che hanno messo insieme dei programmi, perché sono proprio dei piccoli programmini anche abbastanza semplici, perché non stiamo parlando di servizi che si trovano su siti internet strani, sono proprio dei programmi che gente un po' smanettona si è costruito. Beh, diciamo che è l'evoluzione, ci sono dei programmi che permettono di usare un browser come se fosse una persona ad utilizzarlo. Li usano gli sviluppatori per provare l'interazione delle applicazioni, per controllare i bug e per automatizzare il processo di testing. Questo tipo di programma che interagisce con Chrome, con Firefox, viene utilizzato anche per navigare all'interno di un sito e compiere delle azioni come se fossi tu a compierle. E questo in modo veloce, tante volte senza neanche aprire il browser, quindi tramite semplicemente le API, quindi quelle librerie che chiamano indirizzi, e è ripetuto. Quindi questi, utilizzando un Raspberry o un computer, questi script qua possono navigare su un sito, su una pagina specifica, 3-4 volte ogni secondo, verificare se il tastino si illumina, quindi questo disponibile, e se si illumina mettono il prodotto nel carrello e avvisano: guarda, te l'ho messo nel carrello, vai e compra. E così hanno fatto in tanti. L'abbiamo provato uno e effettivamente va a macina, ci dice autostock, e prima o poi lavora 24 su 24, alla fine verrà fuori, guarda, c'è, presente, prendi, buttati e compra. Pazzesco, perché tutto ciò proprio è, diciamo, è amplificato da questi momenti in cui i prodotti sono introvabili, perché ovviamente se tu devi acquistare, che ne so, il burro o la farina in un momento normale su un sito di commercio elettronico, oppure un qualsiasi altro prodotto allargamente disponibile, non ci sarebbe nessuna ragione di fare questo sistema. Cioè, questo sistema è messo in piedi in momenti in cui c'è carenza di prodotto e quindi tu, invece di riprovare tu umano, lo fai fare alla macchina. Carenza di prodotto, ma anche semplicemente Black Friday, semplicemente promozioni. Alcuni di questi script qua che ho visto io ti permettono anche di impostare un prezzo, permettono di impostare un prezzo. Tu scansioni tutti i siti alla ricerca di un prodotto, e quando il prezzo scende sotto un tot te lo segnala. Quindi puoi fare tantissime cose automatizzandole e ricevi notifiche, però crei anche un disservizio, perché se tu hai tanti di questi script che girano, il sito si trova tantissime richieste. Poi pensa, se lo fa una persona sono un tot di richieste, se lo fanno 100 persone diventano 1000, 10.000 richieste, anche un po' per quello che poi andiamo sul sito di questi retailer ed è crashato durante le promozioni o non si accede alle pagine, perché insieme a un tot di umani ci sono anche un numero imprecisato, visto che alla fine puoi moltiplicarli con un click, di questi automi che fanno tutto, che provano a fare il lavoro dell'uomo. Ci sono delle contromisure, perché da un certo punto di vista chi vende potrebbe dire: ma io comunque la vendita la faccio, certo ho come risultati in alcuni momenti della giornata che il sito è irraggiungibile, quindi non ci faccio una gran bella figura. Però chi vende potrebbe dire: io comunque quel prodotto l'ho venduto, poi dove finisce e la fine che fa, io non, a me non interessa. Però diciamo, ci possono essere delle contromisure o non è mica facile? Allora, ci possono essere delle contromisure sicuramente, soprattutto sul singolo sito. Se analizza bene la cosa, può cambiare l'indirizzo del prodotto, cambiare il codice. Non sempre è facile combatterlo, ci sono delle soluzioni, questi script qua vanno adeguati. È chiaro che se uno sviluppatore prende, chi adegua il codice prendendo di mira un singolo sito e monitorandone anche le modifiche, riuscirà comunque sempre un po' a farla franca, ma non è comunque il bagarino generico che scansiona a tappeto tutto, è un singolo sviluppatore. Poi comunque bisogna considerare che il danno per il sito, se tu hai il sito giù che non è raggiungibile, alla fine le persone che non erano interessate a quel prodotto lì non possono comprare neanche il resto, quindi alla fine è un danno economico per l'intero sito, quindi non è che semplicemente non c'è quel prodotto. Poi è successo anche ad esempio di persone che mettono nel carrello, perché mettono nel carrello un sacco di prodotti, poi magari ne comprano solamente uno, ma mentre tu li hai messi nel carrello, questi prodotti qua non possono metterli magari nel carrello altri, quindi si creano tutti dei disallineamenti anche magari a livello di database, di problemi, che sono un bel problema questa cosa qua, cioè, bisogna cercare in tutti i modi di combatterla. Eh sì, è veramente, veramente incredibile. Roberto, torneremo su questo tema, perché qui a questo punto già sono stati messi in discussione per gli umani i click day, perché già gli umani creano delle file e file virtuali incredibili, però se prendono piede, certo, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, stiamo parlando di persone che sono capaci di programmare, quindi comunque non è una cosa che possono fare tutti. Però, come dire, cambiano le dinamiche di molti fenomeni della rete. Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto se in tutte queste promozioni qua si trasformano alla fine in un fenomeno di bagarinaggio, si va a rovinare quella che è la stessa essenza, diciamo, dell'e-commerce. non devono comunque prendere piede, perché sappiamo che queste cose, nate un pochino all'inizio per smanettoni, dopo vengono trasformate in cose molto più user friendly. Non ci vuole molto per trasformare uno di questi programmi in un'applicazione che tutti possono scaricare sullo smartphone. Eh sì. Grazie Roberto, come sempre, a presto, buon lavoro. Ciao Enrico. Adesso parliamo di esoscheletri. Questa settimana c'è stata una presentazione, ovviamente digitale, tutta online, di un prodotto che già esisteva, ma c'è stato un aggiornamento, uno sviluppo di un prodotto di Komau che si chiama Mate XT, pensato per alleggerire il lavoro delle braccia, ma ci facciamo aiutare, ci facciamo dire tutto da Duilio Amico, che si occupa di marketing per tutto il settore della robotica e dell'automazione in Komau. Benvenuto a 2024. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Le faccio subito una domanda sul vostro business principale. Voi siete noti e famosi per i robot che costruiscono vari prodotti all'interno delle aziende. Questo è il vostro, ancora oggi, il vostro core business, giusto? Sì, sì, il nostro core business è la robotica, senz'altro, sia nel mondo dell'automotive, che è il mondo più automatizzato in questo momento, l'industria più automatizzata al mondo, sia ovviamente fuori da questo, in tutte le attività di manifattura industriale. Ecco, invece in questo caso voi avete aggiornato con una serie di novità un prodotto che possiamo, per semplificare, definirlo un esoscheletro, Mate XT, questo è il nome del prodotto, ma sì. Spieghiamo intanto che forse scheletro è una parola un po' esagerata per definire un prodotto del genere, però siamo nell'ambito degli esoscheletri, giusto? Sì, sì, sì, siamo nell'ambito degli esoscheletri e devo dire la verità, poi alla fine il termine non potrebbe rappresentare meglio quello che è l'oggetto. Nel senso che Mate, come molti altri esoscheletri, è proprio una replica della struttura anatomica scheletrica dell'uomo, che serve appunto ad aiutarlo per alleviare sostanzialmente la fatica fisica. Questo è in estrema sintesi la mission di un po' tutti gli esoscheletri, no? E, dopodiché, nello specifico, ognuno di noi ha competitor, diciamo, concorrenti, ha sviluppato la sua soluzione. Noi la nostra l'abbiamo sviluppata con l'aiuto dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, quindi un'altra eccellenza italiana straordinaria. E nel nostro caso noi ci siamo molto ispirati a ci siamo anche dati come vincolo quello di replicare nella maniera più fedele possibile la cinematica, o in altri termini la fisiologia, dell'essere umano. Questa è una cosa molto importante da due punti di vista: un punto di vista puramente di geometria meccanica dell'esoscheletro, perché replica il cinematismo della spalla, che è molto complicato, no? Già di fatto si muove attraverso una serie di gradi di libertà, come si dice in gergo tecnico, quindi fulcri o punti di rotazione che sono molto complicati. E da un punto di vista anche di forza, nel senso che l'esoscheletro che noi abbiamo è un oggetto completamente passivo, non ha motori, non ha batterie, non si avvale, diciamo, se non della pura forza meccanica di elementi elastici. Ma la curva di coppia, come si dice in gergo tecnico, quindi in altri termini la forza con cui l'esoscheletro aiuta, replica esattamente l'andamento della forza muscolare dell'uomo. E questo è molto importante per il benessere, nel senso che dagli studi che noi abbiamo condotto e dalle prove sul campo che abbiamo condotto, i lavoratori si sentono molto a disagio nell'essere guidati da una macchina, ancora è troppo presto, no? O sia in ambito di riabilitazione, allora lì è una necessità, ma per lavorare i lavoratori hanno bisogno di un oggetto che replichi, diciamo, o magari potenzi un po' le loro capacità, ma che sicuramente non si sostituisca a loro. Certo, perché avere per tutta la giornata una struttura di questo genere addosso, ricordiamo che lo si indossa, stiamo parlando di arti superiori, quindi in questo caso stiamo parlando di un esoscheletro che aiuta il movimento, poi lei ci spiega, ci fa anche magari qualche esempio di come funziona, aiuta il movimento delle braccia, si indossa, sembra quasi come uno zainetto e ovviamente anche con una parte che comprende abbraccia, uso un gioco di parole ma per farmi capire, abbraccia le braccia, e a che cosa serve e soprattutto quanto facilita il lavoro dell'uomo, lo rende più veloce, più leggero, più preciso, cioè, a cosa serve? Allora, in questo caso specifico il nostro esoscheletro Mate è dedicato agli arti superiori e nello specifico ha una mission, come si dice, quindi ha un tipo di postura che è quello con le braccia in alto, quindi tutto quello che è il lavoro sotto scocca nell'automobile, non so, sicuramente siete andati da un meccanico e l'avete visto lavorare sotto un ponte. Sollevatore, piuttosto che chi fa potatura degli alberi, raccolta di frutta, incasellamento di oggetti in una posizione elevata, diciamo con le braccia sopra la testa, nella logistica, ce n'è un sacco di questi lavori, chi fa controsoffitti, decorazione, chi fa montaggi elettrici sul soffitto, quindi le ho fatto alcuni esempi per non parlare degli operatori cinema, del cinema che sollevano per esempio le cineprese, no? O i microfonisti anche nell'ambito dello spettacolo. Sì, sì, comunque la lista è sicuramente molto lunga. Sì, sì, molto, molto interessante e molto lunga. Anche noi ne scopriamo, devo dire la verità, ce ne sono alcuni molto divertenti. Ci ha contattato un veterinario che fa il dentista di cavalli, perché la sua posizione per moltissima parte della giornata è deve operare, no? In una posizione molto poco ergonomica, ma voglio dire, è una nicchia ovviamente, però ci sono un sacco di applicazioni anche. Certo, comunque con tante nicchie poi si fanno numeri anche importanti e grossi. Assolutamente. E che cosa, diciamo, già ci ha fatto capire molto, però diciamo rende più leggero il lavoro sostanzialmente, quindi a fine giornata uno ha fatto meno fatica. Esattamente, quindi il tema qui è proprio la riduzione dell'attività muscolare, quindi anche dello sforzo e quindi anche della fatica. MET garantisce una riduzione intorno al 30% dell'attività muscolare, quindi non aiuta a diventare Superman o Ironman, ecco, questo va detto, nel senso che non aiuta a sollevare 100 kg, assolutamente, ma aiuta a tenere più a lungo e in maniera più precisa e con molta meno fatica le braccia in alto, no? Per cui questo incrementa, come stavo dicendo, la precisione del lavoro, perché dopo un po', stando con le braccia in alto, si comincia con la fatica ad essere meno precisi, a tremare un po', sicuramente aiuta nella velocità di esecuzione, nell'industria che ha tempi ciclo molto, molto serrati, può aiutare a mantenere i tempi ciclo e un certo livello di produttività, e comunque al di là dei numeri su cui molto spesso le grandi aziende cercano di trovare una ragione anche di business, no? Per usare questi oggetti, c'è un tema di benessere e di ergonomia che ha un impatto sostanziale su due fronti: da una parte su appunto il benessere delle persone e in secondo luogo sulla capacità, per esempio, di mantenere al lavoro alcune professionalità molto esperte, ma che diventano sempre più anziane, no? Per effetto, certo, dell'allungamento dei tempi di pensione. Sì. Se noi guardiamo alle aziende, io non vado in moltissime aziende a vedere i reparti produttivi, soprattutto nei momenti in cui si produce, la domanda che le faccio è: questi prodotti, poi vediamo anche che altri tipi di prodotti ci sono all'interno di questo segmento, ma sono già diffusi o stiamo parlando ancora, siamo all'inizio della fase di adozione? Siamo sicuramente all'inizio della fase di adozione, noi siamo tra i pionieri, ci sono abbastanza poche aziende, devo dire, al mondo che si occupano di esoscheletri industriali al momento, saremo meno di una decina, quelli veramente rilevanti, diciamo, quelli che non sono delle start-up che fanno sperimentazione. E quindi è un mondo che sta cominciando a rendersi conto che poi alla fine il benessere delle persone che lavorano è fondamentale. Questa pessima avventura del Covid ci ha insegnato molto a tutti quanti, no? E di quanto il benessere e la salute siano importanti. Però questo è un tema che si traduce poi sostanzialmente in produttività e sta diventando sempre più rilevante. Ok, quindi comunque stiamo parlando di, insomma, cose che sono ancora poco adottate. Noi, lei ci diceva che questo è un sistema passivo. Esistono anche già dei prodotti invece attivi in cui c'è di fatto un robot che appunto mi permette di sollevare invece che 10 kg, 100 kg? Non esistono al momento applicazioni industriali diffuse come soluzioni standard, diciamo, che aiutano in queste mission che ha appena descritto lei. Perché, come le dicevo, c'è una forte resistenza da parte dei lavoratori nell'essere guidati o nell'essere aiutati in una maniera così forte. Quindi un po' per ragioni di tecnologia, perché ancora le tecnologie non sono completamente consolidate, insomma, è richiesta anche molta energia, per cui c'è un tema proprio di vestibilità ancora di queste tecnologie, no? E dall'altra parte per l'accettazione da parte del lavoratore, come le dicevo. Dopodiché di esperimenti ce ne sono moltissimi in corso, ma l'ambito industriale è un ambito, devo dire, abbastanza conservativo. Per cui esistono comunque degli esoscheletri attivi, soprattutto per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, gambe in particolare e zona lombare. E quelli sono più adatti al sollevamento, per esempio, da terra di pesi. Noi stiamo sperimentando e stiamo lavorando a un oggetto del genere e, insomma, lanceremo nel futuro abbastanza prossimo una versione lombare, proprio per completare, diciamo, la gamma degli ausili alle persone. Sì. Ovviamente tutti questi, visto che voi vi occupate di robotica, sono tutti strumenti che servono come aiuto ai lavoratori che non possono essere sostituiti dai robot, o meglio, non possono oggi, poi fra qualche anno lo saranno. Ma sa, questo è un tema molto, molto dibattuto e anche molto interessante, nel senso che c'è anche un approccio filosofico dietro. Si può automatizzare, diciamo, a sprombattuto, oppure si può cercare di valorizzare il contributo di entrambi gli attori del processo produttivo, cioè da una parte la destrezza e la flessibilità delle persone e dall'altra parte la forza e la ripetibilità delle macchine, no? Quest'ultimo trend, che noi lo sintetizziamo con un termine che abbiamo, un neologismo che abbiamo coniato, che si chiama human manufacturing, no? Cioè quindi la combinazione e la valorizzazione dell'elemento umano nel processo produttivo. Noi ci crediamo molto, perché la velocità di evoluzione dell'intelligenza artificiale e della robotica non sempre aiuta a trovare soluzioni rapide, pratiche, anche nelle piccole e medie aziende italiane, no? Che sono poi il tessuto produttivo più rilevante. Bene, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci scrivendo a 2024, quindi 2024 e radio24.it, oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo che anche questa puntata, come tutte le nostre puntate, è disponibile in versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Adesso parliamo di Industria 4.0, perché la prossima settimana aprirà uno dei competence center pensati per aiutare le aziende, uno dei più importanti in Italia, uno dei primi in Italia, ce ne sono già che hanno inaugurato, ma qui stiamo parlando di una fabbrica didattica di 2000 metri quadri, si chiama MADE, nasce all'interno, in seno al Politecnico di Milano, e ne parliamo con uno degli ispiratori, fortemente voluto dal professor Marco Taisch, che è professore di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e grande esperto di Industria 4.0. Professore, benvenuto a 2024. Grazie. Ci descrive brevemente la struttura che inaugurerete la prossima settimana? Quello che abbiamo voluto fare è di creare un ambiente che faccia comprendere alle piccole e medie imprese italiane che cosa voglia dire Industria 4.0. Quindi abbiamo creato una sorta di demo center organizzato in 20 dimostratori, ciascuno dei quali ha la possibilità di far comprendere alle nostre imprese il mondo complesso articolato dell'industria 4.0. Il nostro obiettivo è quello di fare orientamento, quindi rivolgersi a quelle aziende che ancora non hanno appieno compreso dopo qualche anno che cosa sia l'industria 4.0, e quello di fare formazione, quindi coloro i quali invece vogliono adottare le tecnologie 4.0 possono trovare in MADE e nei suoi partner tutte quelle competenze che sono necessarie per fare dei progetti industria 4.0. E poi la terza grande attività, direi forse quella più importante di un competence center e sicuramente di MADE, è di aiutare nell'implementazione delle tecnologie 4.0, perché questo è quello di cui ha bisogno il paese, cioè di fare industria 4.0, di implementarla, di renderla operativa. È oggi, credo, il più grande fautore, il più grande motore per aumentare la produttività delle nostre imprese. Il nostro ruolo istituzionale strategico è proprio di aiutare il paese a diventare più 4.0 di quello che sia oggi. Questo lo facciamo perché in questi 2500 metri quadri abbiamo di fatto ricostruito un esempio, forse direi il migliore esempio, di quella che è una fabbrica digitale, una fabbrica intelligente, e quindi questa dimensione è quella che consente di lavorare appunto sulle tre dimensioni dell'orientamento, della formazione e del trasferimento tecnologico. Noi saremo aperti, le aziende potranno venire a visitarci, troveranno delle persone pronte ad accoglierle per fargli fare un giro, un po' fargli capire che cosa voglia dire Industria 4.0, e poi potranno da lì partire in un viaggio che vede MADE come un accompagnatore, come un coach, verso la trasformazione digitale delle loro fabbriche, delle loro supply chain. Prendendo spunto da queste 20 aree, ne scelga una, due, tre, quelle che vuole, ci fa degli esempi per capire, per chi ancora non ha capito che cos'è Industria 4.0, facendo riferimento anche alle tecnologie, perché ovviamente non sono le uniche che sono importanti in questo, in questa trasformazione, ma sono insomma i mattoni che costruiscono il tutto. Assolutamente corretto, oltre alle tecnologie ci vogliono anche le competenze, no? Quindi non a caso questi si chiamano appunto competence center. Ma qualche esempio, allora, prendiamo il primo, la robotica collaborativa. Abbiamo un'area dove abbiamo messo insieme dei robot collaborativi, appunto, che quindi aiutano la persona nell'assemblaggio di una moto. E qui è possibile vedere come l'operatore non viene sostituito dalle macchine, ma viene invece affiancato dalle macchine nel svolgere questa operazione. Questo è un classico esempio di automazione moderna, di automazione 4.0, quella appunto in cui la persona è al centro e viene aiutata dalle macchine. Un altro esempio è quello di una macchina utensile non nuova. Abbiamo appunto messo una macchina utensile di qualche anno per far vedere come attraverso il cosiddetto revamping digitale, cioè attraverso la sensorizzazione della macchina, si possano raccogliere dati e quindi rendere questa macchina più intelligente, al fine di consentirne un miglior monitoraggio, quindi un aumento delle sue prestazioni. Avremo un'altra isola in cui sarà disponibile la tecnologia dell'additive manufacturing, della stampa 3D, così impropriamente chiamata stampa 3D, per far vedere come queste tecnologie manifatturiere oggi consentano di realizzare prodotti in maniera molto più snella e molto più veloce. Abbiamo ricostruito una cave, cioè una zona in cui sarà possibile vedere un prodotto realizzato con tecnologie digitali tre dimensioni, ed entrare in questa cave, in questa grotta, e vedere la realtà aumentata, e quindi essere immersi in un ambiente che è stato totalmente digitalizzato e ricostruito in maniera virtuale. La Lean, per esempio, la produzione snella, oggi c'è un nuovo paradigma, la produzione snella abilitata, supportata dalle tecnologie digitali. C'è un'altra isola dove si vede come le tradizionali approcci alla produzione snella possono essere migliorati da una maggiore integrazione digitale. E poi ce ne sono tanti altri, e l'unica cosa che posso fare è di invitarvi a guardarli. Certo, sono quasi 10 anni che si parla di Industria 4.0, sono circa 4 anni che se ne parla, forse in Italia, o meglio, se ne parla da un po' più di tempo, però diciamo che il governo è intervenuto 4 anni fa. Alcuni che ci stanno ascoltando potrebbero dire: ma ancora c'è qualcuno che non ha capito che cos'è Industria 4.0, non ha capito come mettere assieme tutte le tecnologie di cui da tanto tempo parliamo, che ormai sono a disposizione. Ecco, la realtà dei fatti com'è, professore? Devo dire che l'ultima indagine che abbiamo fatto dell'Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano, la percentuale di quelli che non hanno mai sentito parlare di Industria 4.0 è scesa, meno male, finalmente a pochi punti percentuali. Però un conto è averne sentito parlare, aver letto un titolo su un giornale, un conto è aver capito, compreso se questa sia la strada che la mia azienda debba intraprendere per poter rimanere competitiva. Mi lasci dire che il Covid è stato un grandissimo acceleratore della diffusione della consapevolezza che le tecnologie digitali sono ormai non più un fattore di aumento della produttività, ma sono un prerequisito di accesso al mercato. Quelle aziende che hanno potuto vedere la propria business continuity garantita durante il primo lockdown, durante i mesi dell'inizio dell'anno, erano quelle che avevano un sufficiente grado di digitalizzazione. Questo è stato in qualche modo uno shock per le altre, e devo dire benefico da questo punto di vista. Quindi noi ci aspettiamo una maggior maturità, e ci aspettiamo quindi che il 2021 sia veramente un anno in cui il paese faccia un salto quantico in avanti, tutto supportato poi dai benefici fiscali che vediamo nei documenti che il governo sta predisponendo, essere presenti, direi, in maniera massiccia e soddisfacente. Le faccio una domanda sullo smart working. Normalmente lo smart working viene confuso e si usa questa parola per definire quello che in realtà è telelavoro. Se noi utilizziamo questi due termini nell'industria, quindi smart industry, smart working industriale, non so come definirlo, cosa intendiamo in realtà? Intendiamo il fatto che grazie a tecnologie come l'internet delle cose, come la connettività, oggi l'operatore di macchina, il colletto blu, non deve più necessariamente essere fisicamente a bordo della macchina a contatto per poter controllare, monitorare, eseguire delle operazioni sulla macchina utensile, sull'impianto, ma è in grado di svolgere queste operazioni in remoto. Poi il remoto non vuol dire necessariamente sto a casa a fare queste operazioni, potrebbe essere in un ufficio, in una zona diversa della fabbrica, dello stabilimento, ma comunque in una zona che potrebbe garantire una maggior sicurezza da un punto di vista sanitario, perché il distanziamento sociale in questo modo verrebbe salvaguardato, verrebbe appunto implementato. Questo non vuol dire solo smart working industriale e quindi allontanare l'operatore, questo vuol dire anche maggiore efficienza e produttività. Perché? Perché i dati, è innegabile, diventano un asset fondamentale dell'aumento delle prestazioni dei nostri impianti. La possibilità di leggere dati, di interpretare dati e quindi di prendere decisioni tempestive diventa il miglior alleato per aumentare la produttività. Lo smart working industriale si porterà dietro più di un beneficio, quello di mettere le persone in sicurezza da un punto di vista sanitario, ma quello di aumentare l'efficienza delle nostre imprese. Bene, professore, grazie per essere stato con noi. A presto. A presto. L'uso dei dati in rete e i conseguenti problemi di privacy che negli ultimi anni sono diventati oggetto di dibattito anche fra gli utenti è uno dei grandi temi che accompagnano l'era che stiamo vivendo, direi gli ultimi 10, 15, 20 anni. Ormai tutti sappiamo che esiste uno scambio fra i dati che cedo consapevolmente o inconsapevolmente e i servizi che ricevo, di cui usufruisco spesso gratuitamente. Allora, buona parte di questi dati vengono utilizzati dal sistema pubblicitario. È una roba complicatissima, eh? La pubblicità online è un mercato veramente complicato con molta tecnologia. E allora, vuoi per le richieste delle authority che tentano di essere un argine nei confronti dei cittadini, vuoi per una crescente consapevolezza degli stessi cittadini, un po' in tutto il mondo, direi che più o meno tutto il sistema si sta almeno domandando come continuare a fare le stesse cose ma in modo diverso. Certo, diciamo che molte di queste domande gli attori del mercato se le fanno perché le authority sono lì pronte a col fucile puntato. Ad esempio, una domanda che ci si sta facendo è come superare i cookies. I cookies, lo ricordiamo, sono alla base della personalizzazione di molti servizi, sono alla base del sistema della pubblicità. Google, che è uno dei motori principali, dico uno dei motori principali, ma direi quasi l'unico, ha deciso che si deve cambiare strada e andare oltre i cookies con un progetto che si chiama Privacy Sandbox. Gli esperti ne stanno parlando già da un po' di tempo, ma la cosa mi incuriosisce. Allora ho chiesto aiuto a Nicola Roviaro, che guida il team di specialisti in Europa che si occupano di pubblicità e di privacy, per spiegarci di che cosa si tratta. Benvenuto a 2024. Un saluto a tutti gli ascoltatori di 2024, grazie Enrico. Che cos'è questo Privacy Sandbox? Qual è l'obiettivo di questo progetto? Come dicevi, oggi gli investimenti pubblicitari sono alla base dell'accesso ai servizi e in generale, diciamo, sono alla base di un accesso libero a quello che facciamo ogni giorno online. I cookie rappresentano la tecnologia attraverso cui questo avviene. Tuttavia è necessario che queste soluzioni tecnologiche nel corso del tempo si evolgano per tutelare maggiormente la privacy degli utenti. I cookie sono fondamentalmente delle linee di codice che vengono rilasciate, come dicevi, sui nostri dispositivi, sui nostri smartphone, che per quanto anonimi creano una corrispondenza unica con le nostre attività online. Attraverso Privacy Sandbox stiamo cercando di andare oltre e di creare in modo collaborativo dei nuovi standard che permettano la personalizzazione delle nostre attività, della pubblicità, inclusa la pubblicità online, superando la logica appunto della corrispondenza univoca, e quindi sviluppando dei modelli che siano basati ad esempio su informazioni aggregate. Ecco, possiamo cercare di spiegare che cos'è ad esempio questa iniziativa, questo progetto chiamato Privacy Sandbox? Sì, è un'iniziativa lanciata dal team Chrome di Google circa un anno fa, che comprende una serie di proposte tecnologiche. Quando dico serie intendo che ci sono diversi pacchetti di proposte che vanno a proporre innovazione su come oggi viene ad esempio raggiunto un pubblico attraverso una campagna pubblicitaria, attraverso cui viene misurato un click, ad esempio, quando viene effettuato un acquisto online, o ad esempio anche come vengono protette le frodi. L'obiettivo è appunto superare la dinamica di una condivisione di informazioni relative al singolo, alla singola attività individuale, continuando a offrire modelli di pubblicità rilevanti. E come potrebbe essere fatta questa cosa? Guarda, un esempio molto concreto è basato su operazioni di machine learning che avvengono a livello di dispositivo. Quindi immaginiamo una situazione in cui le nostre attività online sono rilevate sui nostri dispositivi, rimangono sui nostri dispositivi e solo diciamo in determinati poi momenti e periodi delle informazioni aggregate vengono rilasciate verso l'esterno, ma sono comunque informazioni per quanto aggregate fondamentali per permettere che continuino delle esperienze rilevanti anche attraverso la pubblicità. Quindi voi dite non raccogliamo i dati, ma i dati vengono raccolti a livello di o computer o smartphone, e a quel punto che tipo di informazione viene fornita alla rete per far sì che la rete, i servizi possano restituirci o un messaggio pubblicitario o altro tipo di servizio? Sì, un'informazione aggregata come può essere ad esempio l'interesse per una determinata attività. Prendiamo l'interesse ad esempio agli sport invernali. Questa informazione oggi attraverso i cookie deriva da una corrispondenza univoca con tutta una serie di attività online, ad esempio che siti visitiamo, quali video vediamo, e una corrispondenza appunto di interesse. una corrispondenza continua. Attraverso questi modelli si va invece a raggruppare, però a livello di dispositivo, dei profili di attività online, di comportamenti, e in questo modo fornendo informazioni aggregate poi all'esterno per permettere agli inserzionisti di appunto raggiungere il pubblico desiderato. Pensiamolo anche magari con un esempio più quotidiano a quello che già avviene nel contesto dell'utilizzo delle mappe di Google. Oggi, se ci muoviamo nelle nostre città, vediamo previsioni ad esempio sull'affollamento dei mezzi pubblici, o se apriamo una scheda di un ristorante piuttosto che di un'attività commerciale, vediamo le previsioni di affollamento. Questo è possibile attraverso la condivisione in forma aggregata di dati. Provo a fare un esempio io e proviamo a lavorare su questo esempio. È chiaro a tutti che quando io cerco un hotel a Milano, i sistemi su cui io cerco hotel a Milano, che siano Google o un servizio direttamente che mi fornisce la camera dell'hotel, vengono salvati dei dati sul mio computer, e la seconda volta che io vado su quel sito, oppure se navigo, mi arrivano delle pubblicità di hotel a Milano perché si è capito che io sto cercando quel tipo di servizio. Ecco, in questa nuova dimensione, dove non c'è un cookie, dove c'è scritto che Enrico Pagliarini è interessato ad un hotel a Milano, che tipo di dato invece viene restituito alla rete? Cioè, come si fa a capire che io voglio un hotel a Milano? Sì, no, questa è un'esperienza tra l'altro che vediamo ogni giorno navigando online, ma è un qualcosa che può essere mantenuto in termini di opportunità appunto per l'inserzionista pubblicitario, ma condividendo meno dati. Quindi, come dicevi, oggi vengono condivisi dei dati basati sulla corrispondenza univoca delle attività. La stessa cosa può essere mantenuta condividendo ad esempio con un inserzionista informazioni di un cluster, di un gruppo di persone che hanno visitato un determinato sito, non necessariamente dando informazioni e corrispondenze univoche su chi l'ha fatto. Quindi ragioniamo proprio a livello di gruppi di persone con comportamenti simili. Questo progetto vede al centro Chrome. Questo significa che quando si utilizza, cioè, se e come, ma immagino che di sì, perché vista la forza di Google anche nell'orientamento del mercato, questo sarà un progetto, cioè Sandbox sarà un progetto che prenderà corpo sempre di più. Questo significa che chi usa altri browser viene tagliato fuori? No, non è così. La proposta Privacy Sandbox oggi vede la collaborazione da parte anche degli altri browser, e in generale è una proposta aperta alla collaborazione di tutti gli attori dell'industria pubblicitaria. L'obiettivo desiderato è quello di arrivare a degli standard condivisi e quindi a delle soluzioni tecnologiche che siano proprio l'infrastruttura e la base di come avviene la pubblicità online, indipendentemente dal appunto browser utilizzato nel riferimento specifico. Chiaro. Ci sarà un momento, e magari voi l'avete già stabilito, in cui non si useranno più i cookies? Dunque, sviluppare nuovi standard per il web è un processo complesso e quindi richiede tempo. L'orizzonte di tempo su cui stiamo lavorando è quello dei prossimi 18 mesi per superare i cookie di terza parte. Questo è un punto importante perché oggi i cookie non sono solo cookie che permettono di tracciare le attività attraverso diversi siti, ma sono anche cookie che magari permettono di personalizzare le nostre esperienze sul singolo sito. Pensiamo a quando ad esempio accediamo alla nostra casella di posta senza dover reinserire ogni volta le credenziali, piuttosto alla nostra attività di shopping online. Spesso magari salviamo, no, dei prodotti ma non concludiamo l'acquisto subito. Chrome continuerà a supportare questo tipo di esperienze specifiche sul singolo sito, ma Privacy Sandbox mira a superare il cookie come tecnologia su cui è basata la pubblicità online e quindi la comunicazione attraverso diversi siti. Ripeto, stiamo lavorando nell'ottica dei prossimi 18 mesi e l'obiettivo desiderato è un'adozione condivisa di questi standard. Nicola Roviaro, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, sicuramente un obiettivo, l'abbiamo spiegato, è cercare di fare le stesse cose o addirittura fare più cose, cioè indovinare la pubblicità che magari a me interessa con meno informazioni, meno dati. E Google dice che oggi siamo nell'era della precisione, cioè io ho tanti dati e posso essere preciso, chirurgicamente preciso, per mandare quel messaggio che interessa all'utente. Dobbiamo passare all'era della predizione, cioè utilizzare anche tutti i sistemi di intelligenza artificiale che macinano dati per scommettere su che cosa tu possa essere interessato, se magari quel prodotto ti interessa. E secondo le ricerche che Google sta facendo, Google dichiara di essere in grado di fare delle predizioni, delle previsioni molto precise. A proposito di intelligenza artificiale, un po' in tutto il mondo ci si sta domandando se è necessario utilizzare metri di giudizio diversi da quelli a cui siamo abituati. E anche in Italia ci sono varie università, vari scienziati, vari accademici, docenti, studiosi vari, in varie discipline, che si stanno interrogando sull'intelligenza artificiale, sugli impatti che l'intelligenza artificiale potrà avere nel nostro mondo, nel nostro sistema. Ed è stata annunciata questa settimana la Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Il professor Maurizio Mori, docente di bioetica e filosofia morale al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione all'Università di Torino, ci spiega perché c'è bisogno di tutto ciò. Perché noi siamo sicuramente alle soglie di un cambiamento che è radicale e fondamentale nella storia. In che senso? I sensi sono tanti, ma per essere brevi e concisi, sinora la tecnica aveva una funzione fondamentale, ma in qualche misura ancillare. Utilizzando una metafora, la tecnica in un certo senso era una sorta di inganno della natura per riuscire a scansare alcune fatiche. Ma sostanzialmente la tecnica ha un ruolo ancillare, una sorta di aggiunta all'uomo in qualche misura, che dovrebbe rimanere sempre se stesso e essere naturale in sé. Adesso, e qui sta il punto centrale, l'intelligenza artificiale diventa quella che viene chiamata intelligenza artificiale, che è generata da tutta una serie di sottofattori come il big data, il machine learning, il deep learning e ce ne sono tanti altri da coordinare insieme, ma questa enorme capacità di calcolo, di potenza di calcolo che noi abbiamo, diventa l'incentivo che mixa, che tiene insieme, con sviluppi che sono tutt'oggi imprevedibili, tutta una serie di altri cambiamenti tecnologici che sono addivenuti, compresi quelli in medicina, che riguardano il nostro corpo, la nostra riproduzione, compresi quelli del mondo nano, super minuscolo. Allora il punto di fondo è che l'insieme di tutti questi fattori, coordinati da queste straordinarie potenze di calcolo, aprono all'idea che la tecnica non è più solo una sorta di inganno della natura, tenendo la natura come modello, ma che noi ci troviamo a riprogettare la natura, la realtà. E questo ha bisogno di un supplemento di riflessione, cioè noi continuiamo a ragionare che l'etica è quella di sempre, quella per intenderci di Omero, no? E che poi va bene, faremo una qualche variazione a destra e a sinistra. Probabilmente noi stiamo entrando in un'epoca in cui le cose in qualche senso cambiano. Qual è il senso esatto? Non me lo chieda, perché altrimenti non avremmo fatto la società per ragionarne in modo interdisciplinare. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast oppure ascoltato in streaming il nostro super podcast e tutte le nostre interviste in edizione integrale. A proposito di quello che dicevamo poco fa di Google e di questo passaggio dall'era della precisione all'era della predizione, beh, è vero che è difficile imporre e creare uno standard condiviso, però se ti chiami Google sicuramente è un po' più facile, no? Poi vedremo se che cosa ne diranno anche le authority, perché questo sarà, pensate alla difficoltà delle autorità che devono cominciare, già sono sistematicamente, ma non per colpa necessariamente loro, ma che la tecnologia va così veloce, però diciamo si è già in ritardo sull'oggi, figuriamoci se uno deve già cominciare a capire cosa succederà domani. Quindi manco fanno a tempo a capire cosa sta succedendo oggi che le aziende già creano qualcosa di diverso. Bisognerà capire appunto, e questo sarà compito delle autorità, se si tratta di privacy washing, come si dice, come il green washing, quando una società magari che si occupa di petrolio o del mondo in generale dei carburanti fossili fa dei progetti un po' così per far vedere che si occupa anche di green. Poi ci sono delle società invece che lo fanno davvero, quindi quello non è greenwashing. Ecco, nel campo della privacy ci sono alcune società che fanno un po' questa cosa, cioè continuano come se nulla fosse e così raccontano un po' di progetti. Non penso che sia il caso di Privacy Shield, di Privacy Sandbox. Privacy Shield è un'altra cosa. Però vedremo poi che cosa succederà nei prossimi mesi, in questi 18 mesi che potrebbero, si sono un po' allungati per via del Covid, quindi i tempi devono essere un po' più veloci. Comunque tutto molto sicuramente complicato, però anche molto interessante. Grazie ancora per l'attenzione, ci risentiamo alla prossima puntata.